Sono già diversi anni che decidiamo di aprire il TPO parlando, perché vista la complessità dei tempi che ci vedono purtroppo protagonisti, crediamo che sia fondamentale trovarsi, discutere, parlare, cercare di analizzare la complessità. E da questo nasce anche questa nuova rassegna che vede tre appuntamenti. Si chiama Bandita, è anche un po' un richiamo a tutto quello che è successo alle attiviste e agli attivisti del TPO, di Labà, ma anche di altri collettivi in questa città, e chiaramente parliamo di una sorta di quarta criminalizzazione, no? Che avviene in seguito a episodi di attivismo politico come occupazioni di spazi disabitati piuttosto che di spazi abitativi, eccetera. Quindi ci sembrava una bella provocazione per ragionare sulla città. La città ovviamente come spazio, come luogo di costruzione, di cittadinanza, di comunità, ma anche appunto di un contesto che prova a non conformarsi e a rispondere a questo tentativo di criminalizzazione. Quindi sono tre appuntamenti un po' che partono cercando di ragionare sulla vita ai margini, sulla lotta per il diritto all'esistenza e anche insomma per ragionare contro alcune ingiustizie e fare anche un po' il punto su questo tentativo di normazione e criminalizzazione. Proprio per questo i tre appuntamenti hanno tre filoni che riteniamo particolarmente importanti. Uno è sui giovani, sui giovanissimi, in particolar modo si cercherà di fare il punto sul decreto Caivano, no? Che interviene in maniera abbastanza preoccupante sul tema della normalizzazione delle forme di vita dei giovani e dei giovanissimi in questo paese, dalla scuola al carcere, passando per il digitale, un modo in cui in questo caso questo governo sta cercando di modificare o sancire un modo in cui vanno trattati i giovani e le giovani senza particolare compressione e ragionando in maniera punitiva con il carcere, i divieti e i DASPO. Di questo parleremo proprio giovedì questo con l'avvocato Lia De Caro, che è il referente di Antigone per l'Emilia Romagna, e Alessandro Bozzetti del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Andiamo poi a un altro tema abbastanza, come dire, caldo sulle giorni della cronaca, che è quello legato al tema della canapa. Infatti martedì 24 alle ore 19 ragioniamo proprio sul tema i banditi della canapa, un altro decreto del governo Meloni che chiaramente ha sancito la messa al bando dell'utilizzo della canapa per motivi terapeutici e stabilisce l'illegalità di quella della cosiddetta cannabis light. Abbiamo anche visto in questi giorni insomma che il TAR si è schierato contro questo decreto. Avremo ospite proprio l'associazione CSI Canapa, che è stata la prima a muovere l'azione al TAR, che ha sancito come illegale in realtà il decreto del governo, e ne parleremo anche sempre con l'associazione Antigone e con Mattia Santori, che è consigliere comunale a Bologna, che più volte ha preso posizione sul tema della cannabis. Infine giovedì 26 settembre avremo un focus sulla città, sul femminismo di periferia. Avremo l'occasione di presentare questo libro appunto, che si chiama così, Femminismo di periferia, con l'autrice Martina Miccichè, mettendola a confronto con alcune realtà che lavorano sul sociale e sul culturale e politico in alcune zone della città, quindi Anna Maria Maccariello di Offside Pescarola, Rosa Palmisano che condurrà l'evento del TPO e Chiara Serioli del collettivo Verso, che è insomma un'architetta, un'urbanista che spesso si è occupata di temi della città e nello specifico della città femminista, quindi come e quali soggettività vengono escluse o marginalizzate nella progettazione delle città. Ecco, questi sono i tre incontri abbastanza densi, direi, di inizio di stagione del TPO.